Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, sono Rosario Marciano. Sì, ciao Rosario, ciao, ben trovato. Io non ho ascoltato perché non sapevo che c'era questo altro speciale ingegneria clandestina, però appunto mi hanno fatto sapere che adesso avete degli ospiti che negano l'evidenza. No, uno a favore e uno contro. Ecco, e niente, volevo solamente intervenire, grazie alla vostra cortesia, per confermare invece che purtroppo il fenomeno esiste, e anzi il 16 molti avranno notato in cielo un intensificarsi delle operazioni, non a caso proprio tra il 16 e il 20 era in corso un'operazione congiunta NATO che prevedeva l'ottimizzazione del medium atmosferico attraverso la dispersione di questi elementi elettroconduttivi. Quindi ci sono anche dei riscontri. E d'altronde, proprio se andiamo a vedere in quel giorno, i valori di umidità relativa e anche i parametri di temperatura non erano idonei alla formazione di qualsivoglia tipo di scia di condensazione. Proprio il 16, che c'è stato un delirio tale che anche persone che non sono sensibili al problema se ne sono rese conto. Ecco Rosario, perché in realtà oggi non era previsto di parlare di scie chimiche, ma visto che la stampa oggi spara in prima pagina e poi fa un paginone a pagina 15 sulle scie chimiche, dicendo che siamo disposti a credere a tutto, che chi smonta queste cose viene insultato, eccetera eccetera. Ecco, ma io l'articolo della stampa è stato scritto on demand, come si usa a dire, non ormai ne dubitavo. Da un mese a questa parte diversi giornali di come li definisco io, di regime, stanno scrivendo delle veline. E se poi andiamo a leggere l'articolo della Bencivelli, che è l'autrice dell'articolo sulla stampa, andiamo a leggerlo fino in fondo, ci rendiamo conto che non ci sono dei riscontri scientifici, ma solamente degli insulti relativamente a coloro che hanno segnalato il problema. Una serie di invenzioni, sembra un articolo scritto da Paolo attivissimo. In effetti poi sappiamo che la Bencivelli è una sostenitrice del famoso CICAP, Comitato Italiano per il Controllo sui Fenomeni Paranormali, che comunque è un comitato noto per il negazionismo in questo senso. Per cui non mi stupisco di quello che scrive la stampa nazionale. D'altronde, con quello che prendono in milioni di euro di finanziamento ogni anno i nostri media pubblici, posso ben immaginare che possono scrivere tutto quello che i militari gli dicono di far scrivere. Senti, un'ultima domanda allora, a questo punto, visto che ti ringrazio che sei intervenuto, ripeto, non era previsto, mi è spiaciuto che la signora che abbia chiamato prima ci ha fatto passare quasi per oscurantisti, non è così, noi non mettiamo mai giù il telefono e non ci tiriamo indietro di fronte a tematiche spinose. Un radioascoltatore diceva, chi fa il cospirazionista solitamente perché anti-americano, mi chiedo, queste cose le hanno fatte solo gli americani o le fanno anche gli altri? No, cerchiamo di chiarire che queste cose le stiamo facendo anche noi. Cioè, la nostra aeronautica militare non potrebbe far funzionare i suoi bei satelliti, i suoi radar in banda KA che funzionano appunto in una banda di frequenza che non lavora opportunamente se c'è una nuvolosità naturale nella nostra atmosfera, nei nostri cieli. Per cui le nuvole normali che contengono acqua vengono distrutte. Come dice lo stesso generale Fabio Mini, l'atmosfera, se il nostro cielo ha delle nubi da bel tempo o delle nubi temporalesche, impedisce il funzionamento dei satelliti che funzionano nel range della banda KA. Per cui queste operazioni, come ripete il generale Mini, che non penso sia il primo cretino arrivato sulla faccia della Terra, queste operazioni sono necessarie e vengono operate anche dalla nostra aeronautica italiana, quindi non è anti-americanismo. Resta un attimino con noi perché c'è una telefonata per te, credo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io parlo da Mogliano. Sì. E qua è quasi una settimana che a mezzogiorno si vedono tutte le strisce da tutte le parti. Giù siamo vicino anche agli aeroporti di Treviso militare e anche quello di Aviano, insomma, che passano sempre gli aerei qua di Aviano. Chiaro. È una cosa tremenda, come una rete continua, continua. Va bene, grazie. Grazie signora, buona giornata. Rosario? Ma tra l'altro voglio ribadire qui il concetto che quelli che vediamo noi sono aerei che volano a bassa quota. Si tratta di una inseminazione igroscopica delle nubi che sui manuali tecnici viene definita Hygroscopic Base Cloud Seeding, quindi inseminazione igroscopica delle nubi, servono queste operazioni per distruggere la nuvolosità naturale, ovvero sia per abbassare l'umidità atmosferica, e sono operazioni che vengono fatte proprio a quota cumulo, quindi a quote non superiori certamente ai 1800 metri. Tra l'altro abbiamo fatto dei calcoli della velocità di questi aerei, che volano a velocità non superiori ai 370 km orari. Ciò significa che questi aerei, è una prova in più, volano a quota bassa e non a quota di crociera, laddove le velocità tipiche degli aerei di linea commerciali sono di 700, 800, 600 km orari. Perché volano a quote a velocità così basse? Per due motivi. Primo, perché l'inseminazione ha effetto maggiore, e lo vediamo sui manuali dell'aeronautica dell'esercito italiano. A velocità bassa quanto viene disperso viene diffuso con maggiore efficienza, ma soprattutto perché a bassa quota l'aria è molto più densa e velivoli che sono stati realizzati per volare ad elevate velocità laddove l'aria è molto rarefatta, nelle zone di atmosfera dove l'aria è più densa verrebbero danneggiati a causa della densità dell'aria. Okay, Rosario, aspetta, ti devo fermare un attimo perché credo ci sia un'altra telefonata per te. Sì, pronto? Buongiorno, ci dica. Sì, buongiorno. A proposito di strisce, di eccetera eccetera, io da anni, e l'ho fatto anche presente a una radio, sì, noto marciapiedi a Milano sparsi per tutta la città con chiazze bianche ormai sporche, ma che da tempo vedo, che non hanno spessore, non sono cicche nel senso di chewing gum, e hanno tutte lo stesso colore, quindi non sono pitture di caseggiati perché sono sparse per tutta la città, e mi sono sempre domandato da dove possono venire, anzi penso che sicuramente vengono solo dall'alto. Ho capito, grazie. Ecco, questa è la mia esperienza, salve. Grazie. Ecco, Rosario, tra l'altro non so se conosci Claudio Bianchini, che è stato nostro ospite. Lui ha raccolto campioni di cose piovute dal cielo dopo un intensificarsi di scie chimiche, quindi ha questo materiale. Ecco, sì. ti tornano queste cose? Cioè, c'è qualcosa di che si può portare in laboratorio? Torna perfettamente. Allora, intanto se andiamo ad analizzare l'acqua piovana, vediamo che contiene proprio i metalli tipici che vengono usati nelle attività di aerosol, che sono integrate nel progetto RFMP, proprio quello della elettroconduttività dell'atmosfera. E questi elementi killer sono i soliti alluminio, bario, manganese. Logicamente, trattandosi di nanoparticolato che tende a ricadere al suolo molto velocemente, vengono usati dei polimeri che servono come vettori, in modo tale che questi metalli rimangano in atmosfera il maggior tempo possibile, quindi 24-36 ore. Una volta che ricadono al suolo, questi polimeri lasciano delle tracce che spesso sono spacciate per tele di ragno volante. C'è anche un altro fattore, il carbonato di calcio, che viene usato proprio per asciugare l'umidità atmosferica, quindi per distruggere la nuvolosità naturale, e il carbonato di calcio poi, una volta che quelle poche volte piove, ricade e si notano le pozzanghere che sembrano schiuma. È la reazione tipica che si ha dell'acqua piovana che contiene questo carbonato di calcio, quindi poi queste macchie, una volta che si asciugano le pozzanghere, rimangono sul suolo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao. Sono Luca da Roncade. Ciao, dici Luca. Ascolta, mi vengono un po' i brividi a sentire queste cose, perché proprio saranno 20 giorni fa, sì, io ho visto un aereo che sembrava un aereo militare passare a bassa quota e per un tratto avrà lasciato una scia di un chilometro, una scia giallastro marroncina, e io pensavo che inizialmente fossero problemi di motore, invece proprio da questo che mi dite voi mi conferma sta cosa. Ho capito, grazie Luca. È andato pian pianino la scia, io ho fatto delle foto, però ormai era in dissolvenza e è durata anche parecchio come persistenza nel cielo, però non ho avuto la prontezza di spirito di far subito la foto. Ho due foto, adesso vedrò, ma sarà circa 20 giorni fa, insomma. Ho capito, grazie Luca. Dopo daremo l'indirizzo del sito di Rosario, in modo che gli puoi mandare le foto. So che anche Michele Castellano, che è qui con noi, lui addirittura ha un video, ricordiamolo. Sì, questo video è stato girato lunedì, questo intorno a mezzogiorno circa, mentre ero diretto verso la Sicilia in aereo, appunto. poco prima di effettuare questo video era passato un aereo più o meno poco più alto della nostra quota, l'aereo è passato senza lasciare assolutamente nessuna traccia del, quasi nessuna traccia del carburante. Poco dopo ne passa un altro invece che la traccia, più o meno sempre la stessa quota, lascia questa scia che rimane condensata. E quindi uno sì, uno no. Uno sì, uno no, ed eravamo a circa 11.000 metri di quota. Un'altra telefonata per Rosario, poi lo salutiamo poverino che sta chiamando a spese sue. Pronto? Pronto? Pronto, ci dica. Pronto, saluto Rosario Rivasse. No, io sono Druento, sì. Del RIP, lui conosce benissimo di Massimo Rodolfi, no? Sì. Volevo chiedere a Massimo, ma è possibile tutto questo, fare una manifestazione dove partono questi aerei in massa per questo problema? È un problema grosso, dobbiamo affrontarlo prima o poi, non è che possiamo sempre... dircelo tra di noi e non fare mai nulla di massiccio. Dobbiamo fare qualcosa, Marcello, facciamo qualcosa, una manifestazione nei dove partono gli aerei, negli aeroporti. Grazie, ciao, arrivederci a tutti. Grazie. Rosario? Ah, per quello che ne so io, con le normative di sicurezza che ci sono adesso presidiare degli aeroporti sarebbe subito impedito, senza dubbio non verrebbe autorizzata, non verrebbe autorizzato il presidio di un aeroporto. Le manifestazioni peraltro si possono anche fare, ma se i media non ne parlano, e si vede benissimo che i media ufficiali tendono a negare il fenomeno piuttosto che a pubblicizzare manifestazioni per sensibilizzare al problema, è chiaro che dobbiamo intervenire con altri metodi che possono essere, quando si ha un numero notevole di partecipanti, anche lo sciopero fiscale al limite. Cioè, quando noi sappiamo per esempio che la Rai TV non informa correttamente e la Rai TV obbliga al pagamento del canone, basterebbe fare come ha fatto il sottoscritto e dire: io il canone non lo pago fin quando continuerete a fare disinformazione. E attraverso lo sciopero fiscale che si ottiene qualche risultato, perché lo Stato vuole soldi da noi, non vuole che noi, lo Stato non permette che noi si sia veramente liberi come in uno Stato democratico, e questo si vede da tante iniziative, tipo anche come la costruzione a tutti i costi della ferrovia ad alta velocità nella Valsusa. Sono 30 anni che i cittadini protestano anche in maniera abbastanza evidente, però non c'è niente da fare, lo Stato continua e va avanti per la sua strada. Quindi ci vogliono mezzi di protesta completamente diversi, ci vuole un'adesione completa, e chiaramente bisogna raggiungere quella sensibilizzazione che al momento non abbiamo. È tutto questo che bisogna fare. Purtroppo con le manifestazioni di piazza penso che si risolva ben poco. Sì, temo anch'io. Grazie per essere stato con noi, Rosario. Ricorda il tuo sito. Allora, il nostro sito è tankerenemy.com, www.tankerenemy.com, e poi c'è anche il blog meteo, che è tankerenemymeteo.blogspot.com, e il canale video tanker-enemy.tv. Benissimo, grazie Rosario, buona giornata. Buona giornata, buon lavoro. Grazie.